take the bump. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ma buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko e benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di Fuji Comics. Io sono Rachele Copparoni e siamo ormai giunti a questa 16ª puntata di Fuji Comics. Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta le solite 2 ore, sempre dalle 10:30 fino a 12:30, sempre con la vostra Rachele Copparoni in questo mercoledì 5 febbraio. E anche in questo mercoledì il sole splende alle nostre spalle, perché ormai lo sapete, se non lo sapete vi rinfresco la memoria, c'è una magia il mercoledì mattina che accade tutti i mercoledì proprio in, come si dice, in contemporanea alla diretta di Fuji Comics. Splende sempre il sole, eh sì, voi non dovete più guardare le previsioni del meteo perché ormai sapete che tutti i mercoledì dalle 10:30 a 12:30 ci sarà il sole, perché così Fuji Comics porta fortuna. Ore 10:31, oggi siamo partiti puntualissimi dopo la rassegna stampa con il nostro William Fiana e il nostro Alfredo e partiamo appunto belli carichi con questa 16ª puntata di Fuji Comics. Ricordiamo anche così sin da subito i vari contatti con cui potete raggiungerci. Allora, innanzitutto partiamo dal nostro numero di telefono 333-180-9494, ve lo ridico, 333-180-9494, in cui potete mandarci sia un sms oppure un messaggino su WhatsApp o su Telegram e scriverci un po' cosa state facendo in questo mercoledì 5 febbraio. Ovviamente non dimenticate anche di andare a dare un'occhiatina al nostro sito www.radiocittafujiko.it, in cui potete trovare insomma tutti i nostri articoli, tutte le nostre interviste e gli approfondimenti sia musicali che appunto culturali, ma anche ovviamente della nostra redazione giornalistica. E infine, non per ultima cosa, ricordate anche di seguirci sui vari social, da Facebook a Instagram, sempre ci trovate come Radio Città Fujiko, e se volete avere qualche spoiler, qualche anticipazione delle puntate di Fuji Comics, seguite anche Fuji Comics sia su Instagram che su Facebook e troverete un po' il dietro le quinte della preparazione di queste 2 ore di diretta insieme a tutte e tutti voi. Ma che dire, partiamo anche un po' con della musica e partiamo con un grande pezzo dei Police, Walking on the Moon, che inizia un po' a portarci all'interno di questa prima parte della playlist di queste 2 ore di diretta. Walking on the Moon è il singolo, il secondo singolo estratto dall'album Reggaeta the Black, il secondo album del gruppo appunto The Police. Il singolo fu il secondo a piazzarsi al numero 1 delle classifiche UK dopo il precedente Message in a Bottle, mentre negli Stati Uniti non riuscì ad entrare in classifica. Ci sono anche delle piccole, come dire, curiosità su questa canzone che sono scritte nell'autobiografia di Sting. Infatti lui stesso dice che la canzone parla della sensazione di essere innamorati e probabilmente fu parzialmente ispirata ad una sua vecchia fama, ma dice anche sempre nella stessa autobiografia che probabilmente questa canzone è stata scritta mentre lui stesso era ubriaco. Nel video della canzone fu girato appunto al Kennedy Space Center il 23 ottobre 1979, raffigura i membri del gruppo che interpretano la canzone in mezzo a esposizioni di astronave e ci sono anche degli inframezzi con filmati della NASA. E questo inizia un po' a portarci all'interno dell'argomento di questa prima mezz'ora appunto di Fuji Comics. Intanto andiamo a sentirci Sting con i Police, Walking on the Moon. We'll be right back. Erano i Police con Walking on the Moon. Ma torniamo un po' a parlare del menu di questa puntata di Fuji Comics e di queste due ore di diretta. Allora, abbiamo già parlato di NASA, di Kennedy Space Center, di astronavi, di razzi che partono, e quindi, come avrete forse già intuito, si parlerà di Luna e di viaggi spaziali, e ne parleremo prendendo spunto da Leo Ortolani e da uno dei suoi fumetti usciti appunto come diciamo new entry a Lucca Comics, e sto parlando di Luna 2069, edito da Feltrinelli, quindi della sezione appunto Feltrinelli Comics, che è stato scritto da Leo Ortolani per i 50 anni dal primo sbarco lunare. Questo libro mi è, come dire, gentilmente stato prestato, stato offerto da il nostro Andrea Utensili, che mi ha caldamente invitato e mi ha appunto prestato proprio fisicamente questo fumetto, perché io non l'avevo comprato, perché devo dire, adesso risulterò un po' impopolare, ma non sono grandissima appassionata dei disegni di Leo Ortolani, ma ero incuriosita da questa storia che parlava della luna e che un po' raccontava anche veramente in retroscena di questi 50 anni dal primo sbarco lunare, dal primo piede messo appunto sulla luna. Come vi dicevo, il fumetto è uscito a fine 2019, è stato presentato a Lucca Comics e appunto io ho avuto il piacere di leggerlo grazie ad Andrea che me l'ha prestato, e quindi parleremo un po' di questo fumetto e in questa prima mezz'ora all'interno del nostro consiglio di lettura della settimana. Ma il momento principale, il momento più importante di queste due ore di diretta, che come sempre è l'intervista a un artista o un artista che fa fumetti, quest'oggi sarà un po' diverso, un po' particolare, perché sono andata a intervistare Christian Borghi, il direttore artistico dell'area comics del Nerd Show di Bologna. Infatti questo fine settimana, l'8 e il 9 febbraio, qua Bologna diventerà un po' la capitale dei nerd, perché nella zona fiera si terrà appunto il Bologna Nerd Show. Quindi con il direttore artistico Christian Borghi abbiamo parlato di chi ci sarà sul palco del Nerd Show, quali saranno gli ospiti, che fumettisti più che altro saranno presenti, le novità di questa edizione, quindi abbiamo un po' snocciolato questa terza edizione del Bologna Nerd Show. Ovviamente si parlerà anche di novità, sia di novità in campo editoriale, ma si inizierà anche già a parlare del Comic Con di Napoli, quindi già qualche ospite, nonostante manca in realtà molto tempo, però sono uscite le notizie e chi eravamo noi per non parlarne. E ovviamente queste due ore di diretta si concluderanno con gli eventi della settimana, da questo mercoledì fino al prossimo, quindi un po' tutta la settimana con le varie costellazioni di eventi che caratterizzano la nostra città, quindi Bologna, sempre con la voce della nostra Teresa. Ma che dire, continuiamo un po' ad ascoltare di musica, a parlare di, come dire, musica lunare, di allunaggio, e un'altra canzone che non poteva mancare decisamente in questa playlist è Dancing in the Moonlight, canzone apparsa per la prima volta nel 1973 nell'album omonimo dei King Harvest. Questa canzone in realtà fu, come dire, l'unico e vero successo di King Harvest e raggiunse il 13° posto della classifica Billboard Hot. Harvest scrisse in seguito altri singoli, ma nessuno raggiunse mai lontanamente il successo di Dancing in the Moonlight, quindi noi ce l'andiamo a ascoltare e poi torniamo in diretta per parlare del consiglio di lettura della settimana. Everybody was Dancing in the Moonlight dei King Harvest è quello che abbiamo appena ascoltato. Ore 10:47, siamo già arrivati al momento del consiglio della settimana, quindi direi subito che se no facciamo tardi di far partire la sigla e torniamo per parlare di Leo Ortolani e la sua Luna 2069, quindi sigla. Il consiglio della settimana. E come vi dicevo, appunto, parleremo di Luna 2069 di Leo Ortolani, pensato per celebrare i 50 anni dal primo sbarco lunare. È stato anche realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito della missione spaziale Behind ESA, a cui partecipa l'astronauta italiano Luca Parmitano. Infatti, tra l'altro, curiosità, per l'occasione un disegno raffigurante la copertina del volume, di questo volume, è stato proprio trasportato dalla navicella che è approdata sulla stazione spaziale internazionale, dove Luca Parmitano è sbarcato lo scorso 20 luglio. E questa è un'operazione in realtà molto simile che è già successa per C'è Spazio per Tutti nel 2017, quando l'astronauta Paolo Nespoli girò un video in orbita con un album promozionale appunto del fumetto C'è Spazio per Tutti. Luna 2069 è stato appunto presentato direttamente da Leo Ortolani durante un incontro al Luca Comics and Games che c'è stato a questo novembre 2019, appunto domenica 3 novembre all'auditorium, uno degli auditorium del Luca Comics, e in libreria è stato distribuito in realtà già qualche giorno prima, perché c'è in edicola dal 31 ottobre. Leggiamo anche un po' la sinossi diffusa dall'editore prima di andare proprio all'interno del fumetto e vedere un po' di che parla. L'incredibile viaggio dell'astronauta fortunata alla scoperta della Luna, 100 anni dopo il primo leggendario passo di Neil Armstrong. Con lui il misterioso Mr. Musk, imprenditore spaziale, una delle incarnazioni derivate dal più famoso personaggio di Leo Ortolani, il supereroe Ratman. Insieme scopriranno che esistono molti modi per lasciare un'impronta nella storia dell'umanità, tornare sulla Luna senza scappare dalla Terra. E facciamo prima una piccola pausa così di stacco musicale, continuiamo la nostra playlist lunare con Moonlight Shadow dei Mike Oldfield. E siamo tornati in diretta alle 10.54, sta per scoccare la prima mezz'ora, ma noi non abbiamo ancora terminato di parlare di Luna 2069 di Leo Ortolani. Allora, la storia di che cosa parla? Praticamente la storia segue la parabola di vita di un astronauta che si chiama Fortunato, che è realizzato appunto sulle fattezze, diciamo, di Luca Parmitano, che si trova a viaggiare tra le stelle in compagnia di, diciamo, praticamente di Ratman, che però qua nel fumetto viene presentato come Elon Musk. E in appunto questo fumetto Luna 2069 appunto è il protagonista stesso ad accettare la proposta di viaggio per mettere nuovamente piede sull'unico satellite della Terra, quindi appunto sulla Luna. E diciamo che è un'esperienza che decide di fare anche con qualche riserva, ma comunque decide di intraprendere per riscattarsi dall'essere stato sostituito all'ultimo all'interno della spedizione ufficiale a cui doveva prendere parte inizialmente, ma poi appunto è stato scartato. Diciamo che è molto simile il susseguirsi della storia a quanto avviene nelle più classiche imprese di Ratman, quindi la missione dei due protagonisti assume dei toni molto surreali, molto caratteristici appunto dei racconti di Leo Ortolani, che mischia queste situazioni assurde a delle gag che fanno ridere, che sono dissacranti, molto parodistico come genere, e in realtà mischia appunto queste situazioni così assurde che fanno così ridere con avvenimenti e dati scientifici molto precisi e molto reali. Infatti ci sono dei brevi intermezzi che intervallano appunto la storia principale, ma la contestualizzano, quindi ci fanno ripercorrere i principali eventi che 50 anni fa hanno portato appunto l'uomo a calpestare, a mettere piede per la prima volta sul suolo lunare. Diciamo, senza risparmiare niente nessuno, si parla anche ad esempio di terrapiattisti, di complottisti vari, insomma veramente di tante cose. Luna 2069 racconta in realtà molto di più di semplicemente un viaggio tra le stelle. È una storia che mi ha colpito perché non parla solo di questo, anche se è molto interessante conoscere come è andata realmente, perché sa, in 50 anni ogni tanto la memoria storica si perde un po', quindi ripassare anche un po' cosa è successo, cosa è stato l'allunaggio, ma ci fa anche riflettere sui sogni, su quanto i sogni ogni tanto ci fanno dimenticare ciò che è davvero importante per noi, soprattutto quando poi riusciamo a trasformare i sogni in realtà, ma vediamo portarceli via in uno scocco di dita e vediamo che alla fine ci manca sempre qualcosa. Quindi è una storia che insegna un po' come le grandi imprese alle volte si compiono anche restando a casa, senza per forza dover percorrere milioni di chilometri, in questo caso arrivare addirittura fino alla Luna. Ma concludiamo questa prima parte di playlist dedicata alla musica lunare con uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani, un cantautore, un musicista, un attore bolognese doc. Sto parlando di Lucio Dalla, conosciuto appunto per il suo ecletticismo musicale, ha duettato con moltissimi artisti di fama internazionale e nazionale, e ho anche scoperto che nell'arco della sua lunga carriera che ha raggiunto 50 anni di attività, ha suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti questi ultimi due, quindi sassofono e clarinetto, che suonava già fin da piccola, una cosa che non sapevo, quindi ancora più complimenti a Lucio Dalla. Noi ci andiamo a ascoltare L'ultima luna, tratto dall'album appunto Lucio Dalla, che è stata anche tra l'altro reinterpretata da Jovanotti nel 2019, inserita nell'album Lorenzo sulla luna, quindi andiamo a ascoltarci L'ultima luna di Lucio Dalla e poi un po' di pubblicità. Quella del Luna Park,

That's what I want to do. E 10 torniamo in diretta sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Fuji Comics e questa è la voce di Rachele Copparoni. E siamo tornati in diretta dopo la pubblicità, ma soprattutto dopo aver ascoltato i Two Door Cinema Club, che sono un gruppo musicale indie nordirlandese formato nel 2007, da Alex Trimble, Sam Halliday e Kevin Baird. Finora la band ha pubblicato 4 album in studio e 3 EP, e la canzone che abbiamo appena ascoltato è What You Know, che viene dal primo loro album, quindi l'album di debutto, Tourist History. E siamo giunti al momento del contenuto esterno, quindi dell'intervista, del momento in cui facciamo un pochino di domande solitamente a un fumettista, ecco, che compone i fumetti. E quest'oggi, come vi dicevo nell'anteprima del menu della puntata, invece abbiamo parlato con Christian Borghi, che è un direttore artistico dell'area comics del Nerd Show di Bologna. Infatti questo fine settimana, quindi sabato 8 e domenica 9 febbraio, al quartiere fieristico di Bologna ci sarà il Nerd Show Comics, Videogames e Cultura Pop. Per il terzo anno consecutivo torna questo ormai irrinunciabile appuntamento dedicato al fumetto, al gioco, ai videogiochi e anche per quest'anno ai fenomeni del web, di YouTube, organizzato appunto da Bologna Fiere. L'8 e il 9 febbraio i padiglioni del quartiere fieristico di Bologna si riempiranno appunto di tutti i colori del mondo nerd. Ci saranno 250 celebrità ospiti della manifestazione, ne cito così giusto qualcuno, ma poi ne parleremo meglio appunto all'interno dell'intervista con Christian Borghi. Tra di loro ci saranno gli youtuber Space Valley, che hanno conquistato più di 850.000 iscritti al loro canale online, proponendo un divertente talk show, e tra l'altro sono bolognesi doc, quindi chi meglio di loro poteva essere all'interno di questo Nerd Show di Bologna. ci saranno i grandi interpreti delle sigle dei cartoni animati, sabato sera Giorgio Vanni e domenica Cristina D'Avena con i Jam Boy, pronti a far divertire tutti, veramente, dai bambini a noi che siamo un po' più cresciuti, ma che comunque Cristina D'Avena e i Jam Boy li adoriamo comunque. Ci saranno 120 autori italiani e internazionali per la presentazione di fumetti, e quindi sarà una veramente delle manifestazioni più grandi e più ricche d'Italia, e i visitatori potranno anche farsi incantare dalle monumentali costruzioni di mattoncini e divertirsi con le 500 postazioni dell'area gaming, che sarà appunto attrezzata per sfide all'ultimo colpo. Appunto, ci saranno 4 padiglioni per 34.000 metri quadrati, e quindi insomma ci sarà veramente da divertirsi questo fine settimana, sabato 8 e domenica 9. Io ho avuto il piacere di parlare con Christian Borghi, il direttore artistico dell'area comics di questo Bologna Nerd Show, quindi che dire, andiamo a ascoltarci subito l'intervista direttamente con Christian Borghi per approfondire questo incontro nazionale dei fumetti e dei games, di, insomma, di tutto quanto, questo incontro nerd, chiamiamolo così, che facciamo prima. Siamo qui in collegamento con Christian Borghi, il direttore artistico dell'area comics del Bologna Nerd Show, che si terrà questo fine settimana. Innanzitutto, buongiorno Christian e benvenuto. Buongiorno sulle voi. Frequenze di Radio Città Fusico. Grazie. Allora, Bologna diventerà appunto la capitale dei nerd questo fine settimana, l'8 e il 9 febbraio. Innanzitutto, a che edizione siamo arrivati? Quest'anno è la terza edizione. Quali sono le novità di questa terza edizione? Allora, quanto tempo abbiamo? Perché in un paio d'ore dovrei riuscire a raccontare. No, sto scherzando. Beh, la novità più eclatante è l'aumento proporzionale di spazio. L'anno scorso eravamo su 3 padiglioni da più o meno 20.000 metri quadrati, quest'anno saremo su 5 padiglioni da 34.000 metri quadrati. Ci saranno 10 palchi animati costantemente con workshop sui fumetti, presentazione di libri, conferenze, spettacoli, cosplay, animazione, cartoni animati, musica K-pop, insomma è una fiera proprio il ritrovo del nerd. In questi 2 giorni Bologna sarà la capitale italiana di noi nerd. Fra le novità, diciamo, più importanti c'è anche un'area dedicata totalmente alla fantascienza e una invece per gli amanti del doppiaggio. Allora, abbiamo un'area dedicata alla fantascienza e organizzata in collaborazione con l'Ultimo Avamposto, che è un punto di riferimento per la fantascienza italiana, che ha sede lì a Bologna, che ha coinvolto numerose associazioni da Star Trek, Doctor Who, Ghostbuster, Star Wars. Ci sarà appunto un'area dedicata e allestita come gli scenari dei più importanti film, le più importanti serie TV, dove si potrà andare a fare foto. Ci saranno conferenze, dibattiti su Star Wars o Star Trek. E novità appunto di quest'anno, parlavi dei doppiatori, avremo un vero e proprio galà del doppiaggio, si chiama Voice of Nerd. Ci sarà un palco dedicato al doppiaggio e alcuni tra i più importanti doppiatori italiani verranno a raccontare le loro esperienze e ci sarà una vera e propria votazione. Faccio qualche nome per capire il livello: Mino Caprio, straordinario doppiatore di Peter Griffin, Mazzotta, il doppiatore di Krusty Clown, o Carlo Valli, il doppiatore di Robin Williams. Ce ne sono una quindicina e non è... c'è il doppiatore di Frodo, Davide Perino, e insomma ce ne saranno veramente tantissimi. Come on. people telling me to stay. Never time to have my mind made up. Caught in emotion and I don't wanna stop. So many people telling me one way. So many people telling me to stay. Never time to have my mind made up. Caught in emotion and I don't wanna stop. And I don't wanna stop. Invece un po' di fumetti, quali saranno gli ospiti principali dell'area comics? Allora, avremo più di 150 autori quest'anno disponibili per firme, sketch, fotografi, commission, e non vorrei fare torto a tutti e 150, che sono comunque tutti autori a livello nazionale che pubblicano per case editrici come Sergio Bonelli Editore, Marvel, DC Comics, e sono tutti editori pubblicati. Avremo anche un'area dedicata alle autoproduzioni che vede comunque giovani ragazzi che provano a fare di questa passione una professione. Cito alcuni nomi: il grandissimo Tanino Liberatore, Giuseppe Palumbo, dagli Stati Uniti abbiamo David Mack, Gerald Parel, dalla Russia Otto Schmidt, che è un disegnatore straordinario. Italiani che lavorano all'estero: Mirka Andolfo, che lavora per DC Comics, Alessandro Vitti e Matteo Scalera, un talento di Parma che lavora per Marvel, DC e Image, Paolo Mottura, disegnatore Disney. Insomma, citarne alcuni significa fare un torto agli altri, quindi su nerdshow.it, che è il nostro sito ufficiale, c'è la lista di tutti gli autori di fumetti e non solo, anche degli spettacoli che ci saranno. Sono orgoglioso di aver portato Renato Pozzetto in fiera, un'icona della comicità, intervistato da Yotobi, che è uno degli youtuber più importanti che abbiamo in Italia. Ci saranno anche gli stand veri e propri con le case editrici e gli autori e le autrici pronti per dei firmacopia? Sì, sì, assolutamente. Abbiamo praticamente tutte le case editrici italiane, da Bonelli, Panini, Star Comics, J-Pop, Bugs Comics, Shockdom, che ci porta Sio e la Badessa, due fenomeni pazzeschi del fumetto nato in rete e poi uscito anche nelle librerie. Ci sarà Feltrinelli Comics con Wally, Tanino Liberatore, appunto, che viene per Comic Con Edizioni. Insomma, è una fiera che punta molto sul fumetto. Insomma, stiamo cercando di riportare il fumetto alle fiere del fumetto. Sembra una contraddizione, ma ultimamente le fiere di settore hanno puntato molto su altre cose rispetto al fumetto. E noi a Bologna, che è la città, forse la capitale del fumetto italiano, proviamo a riportare il fumetto alle fiere del fumetto, senza tralasciare cosplay, senza tralasciare i concerti. Avremo Cristina D'Avena e Giorgio Vanni e Murubutu, portiamo il rap di qualità alle fiere del fumetto. Insomma, stiamo cercando di sperimentare. Solo domenica sera sapremo se la nostra sperimentazione ha avuto successo o meno. Ci sarà anche un po' di spazio per gli youtubers? Sì, sì, assolutamente. Avremo Power, che è il più importante twitcher, credo che si chiami, cioè lui lavora sulla piattaforma di Twitch, sì. Gioca a Fortnite, il più importante twitcher italiano. Avremo gli Space Valley, un fenomeno molto molto importante, la Sabri Gamer, Sbraiser, Yotobi, che comunque era uno youtuber, uno dei primi youtuber italiani che non mancava dalle fiere di settore dal 2013, quindi siamo riusciti ad averlo e la cosa ci riempie d'orgoglio. Quindi un evento veramente ricco di ospiti, di appuntamenti, di, come dicevi tu, concerti, firmacopie, insomma veramente ricco di tante tante cose differenti tra loro. Ultima domanda, un pochino più tecnica diciamo, i biglietti come si acquistano, quanto costa? Allora, si possono acquistare o direttamente alle biglietterie della fiera nei giorni della manifestazione, ma noi speriamo che ci siano tante file, quindi noi consigliamo di andare su www.nerdshow.it e dove c'è il programma ospiti e tutto, c'è il link per andare ad acquistare i biglietti. Il biglietto costa intero 13 euro per l'intera giornata e all'interno della manifestazione non c'è niente a pagamento, quindi uno entra e può usufruire di tutto gratuitamente, e 11 euro ridotto. Perfetto. Grazie mille Christian per questo approfondimento sul Bologna Nerd Show, che ricordiamo è questo fine settimana l'8 e il 9 febbraio appunto qua a Bologna, alla zona fiera. Grazie a voi. Grazie, ciao. Vi aspetto tutti in fiera. Ciao, buona giornata. Christian, grazie. Woke up today and the sun was shining. I said, Miss the sun, where have you been? He told me, sorry, dear, I had to go away. But never have no fear, I'm always back again. I got to show you the dark, so you can really feel the light, you know. I need you.

pubblicato il 5 marzo 2001 come primo estratto dal primo album in studio. Il video e lo stesso nome del brano sono un riferimento al famoso film con appunto l'attore Clint Eastwood, come ovviamente si capisce dal titolo, è Il buono, il brutto e il cattivo, e il tema può essere sentito all'inizio del video. Infatti il famoso anche il ritornello del brano, quindi non si capisce non solo dal video ma anche appunto dalle parole della canzone, e appunto dicevamo il famoso ritornello del brano in cui dice I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, è un riferimento appunto ai soldi nella borsa che il personaggio di Clint Eastwood porta via con sé alla fine del film. Ma ricordiamo ancora una volta le modalità con cui potete raggiungerci e rimanere connessi con noi. Innanzitutto seguiteci sui vari social, sia su Facebook che su Instagram, ci trovate come Radio Città Fujiko, e ovviamente andate anche a cercare Fuji Comics sempre sia su Facebook che su Instagram per vedere un po' il dietro le quinte della preparazione delle puntate, avere anche qualche anticipo di spoiler, oppure altrimenti anche per andare ad ascoltare podcast delle vecchie puntate. Andate anche a cercare il nostro sito www.radiocittafujiko.it, dove potete trovare tutti i nostri articoli e tutte le varie collaborazioni che facciamo appunto sia dal punto di vista culturale, musicale, ma anche ovviamente giornalistico. E infine, non per ultimo, ricordate anche di segnare nella vostra rubrica il numero di Radio Città Fujiko, che è 333-180-9494, in cui potete mandarci sia un SMS, un messaggino tramite WhatsApp oppure su Telegram. E prima di passare a parlare delle novità in campo editoriale, sempre per quanto riguarda i fumetti e le graphic novel, ci ascoltiamo un'altra canzone, questa volta di sempre un altro gruppo di fama mondiale, internazionale, sto parlando dei Red Hot Chili Peppers, e ci andremo a ascoltare Danny California. Si tratta del primo singolo estratto dal loro nono album in studio, Stadium Arcadium, pubblicato ufficialmente come singolo il 2 maggio 2006 e debuttato poi in radio il 3 aprile sempre dello stesso anno. È arrivata alla 24esima posizione di Billboard, poi è salita al sesto, è diventato il terzo singolo del gruppo ad entrare nella top 10, quindi insomma grazie a questa canzone i Red Hot hanno veramente raggiunto il vertice di ogni classifica, quindi direi di andarci a ascoltare subito Danny California. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah. one for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Erano i Red Hot Chili Pepper con Hell in California, ma siamo tornati in diretta finalmente per parlare un po' di fumetti e partiamo proprio con una novità in campo editoriale. Dopo la super notizia che la Panini Comics sarà la casa editrice che pubblicherà la DC Comics per quanto riguarda ovviamente l'Italia, c'è un'altra appunto novità in campo editoriale. Il Castoro, casa editrice specializzata in fumetto per ragazzi, ha annunciato che pubblicherà in Italia la linea graphic novel for young adult della DC Comics. Si tratta appunto di una nuova collana di graphic novel da libreria pensate proprio per ragazzi, per adolescenti, e il primo volume proposto sarà Harley Quinn Breaking Glass, che in Italia verrà tradotto con il titolo Gotham Arrivo, e sarà in distribuzione dal 27 febbraio prossimo, quindi tra veramente poco tempo, tra insomma una ventina di giorni, ma in realtà è già ordinabile online. Questo appunto primo volume parlerà di come la quindicenne Harley Quinzer viene mandata a vivere nella pericolosissima Gotham City e diventerà appunto quella che tutti noi conosciamo come Harley Quinn. Tra l'altro proprio in questi giorni, non so se è già uscito o sta uscendo proprio in questi giorni, il film su Harley Quinn, che fatemi anche sapere al 333-180-9494 se lo andrete a vedere, se vi piace come personaggio dei fumetti, quindi insomma lo volete vedere trasportato cinematograficamente, no niente, non mi viene la parola, vabbè, comunque se lo volete vedere al cinema, se lo andrete a vedere oppure no, io ancora devo decidere se mi convince o meno. I prossimi volumi sempre di questa nuova linea di graphic novel per ragazzi e adolescenti saranno a maggio 2020 Wonder Woman, a ottobre 2020 Raven, che racconta appunto la storia di Raven dei Teen Titans, ovvero della 17enne Raven che è alla ricerca un po' del suo passato e della sua vera identità, e infine a novembre 2020 Under the Moon, a Catwoman Tale, che appunto racconta la vita sofferta e difficile che ha portato la quindicenne Selina a sopravvivere alle strade di Gotham City diventando poi Catwoman. Quindi si arriva fino a novembre 2020, veramente al di là del tempo e dello spazio, ma insomma era una cosa, una novità in campo editoriale che vi volevo raccontare. Continuiamo con ancora un po' di musica e continuiamo con questa playlist che ormai ha preso dalla luna, ormai è arrivata fino al rock statunitense, ha preso così un'altra piega. E ci andremo ad ascoltare Foo Fighters, gruppo musicale appunto alternative rock statunitense, fondato nel 94 da Dave Grohl, che è l'ex batterista dei Nirvana. Infatti dopo lo scioglimento dei Nirvana dovuto alla morte di Kurt Cobain, il gruppo il batterista ha deciso di fondare un nuovo gruppo, e il nome Foo Fighters deriva dal termine proprio Foo Fighter, che è un'espressione usata per indicare durante la Seconda Guerra Mondiale quegli strani avvistamenti aerei simili a, diciamo, quelli che vengono chiamati UFO. Noi ora ci andiamo a ascoltare una delle canzoni penso più famose dei Foo Fighters, che è The Pretender, il singolo pubblicato il 6 agosto 2007 come primo estratto dal sesto album in studio. Quindi andiamo a ascoltarci subito The Pretender. Same old story. Ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato i Foo Fighters per parlare di un altro grande evento nazionale di cui già iniziano ad esserci un po' le prime informazioni. Sto parlando del Comic Con, il salone internazionale del fumetto di Napoli, che ha aperto già le prevendite per l'acquisto online dei biglietti per questa edizione, l'edizione appunto del 2020, che come sempre si svolgerà alla mostra d'Oltremare. Quest'anno sarà dal 30 aprile al 3 maggio, quindi se siete intenzionati, lo so che è presto, ma se siete intenzionati è, come dire, veramente uno degli incontri, uno dei saloni internazionali più importanti per quanto riguarda il panorama italiano, quindi vi consiglio di andare già direttamente sul sito ufficiale del Comic Con e magari sbirciare già quanto costano i biglietti, insomma le varie informazioni. Si parla appunto già di ospiti, uno dei più importanti sarà il fumettista giapponese Suzo Oshimi, che appunto sarà tra gli autori internazionali ospiti di questo Comic Con 2020. Tra l'altro per l'autore è la prima partecipazione a un festival di un fumetto europeo, quindi non solo italiano. Oshimi è autore di manga come Happiness, I fiori del mare, Tracce di sangue, tutti pubblicati in Italia da Planet Manga. Altro annuncio che riguarda sempre il Comic Con di Napoli, è stato già detto, è stato già annunciato che il magister, diciamo, dell'edizione 2020 sarà Davide Toffolo, il fumettista che è anche autore di 5 Allegri ragazzi morti, Carnera, Pasolini, Il Re Bianco, Piera degli Spiriti, e nonché ovviamente musicista e frontman della band I Tre Allegri ragazzi morti. L'annuncio è stato dato proprio tramite un video pubblicato sui canali social del Comic Con, e quindi insomma queste sono le prime informazioni che circolano riguardo il Comic Con in salone internazionale del fumetto di Napoli, che si terrà appunto il 30 aprile e 3 maggio. C'è ancora tempo per parlarne, ma insomma già si iniziano a esserci le prime informazioni, quindi come ho detto prima, chi siamo noi per non parlarne? Ore 11:58, è già finita quest'altra mezz'ora di Fuji Comics, il tempo non mi basta mai per parlare, ma prima di andare in pubblicità vi voglio far sentire un'altra canzone, sempre rimanendo un po' nel tema rock punk, che ho ritirato fuori veramente, anzi YouTube mi ha ritirato fuori dal passato, perché sarà dagli anni, non so, dal 2005 tipo, da quando è uscita, che non l'ascolto. Sto parlando di Misery Business dei Paramore, gruppo musicale statunitense formato nel 2004, appunto, quindi questo era uno dei singoli estratto penso dal loro primo disco, quindi sarà insomma 2005-2006, veramente da quegli anni lì che non l'ascolto, l'ho ritirata fuori dal cappello e quindi insomma la volevo inserire all'interno di questa playlist di oggi. Ci andiamo a ascoltare Paramore con Misery Business. From the top, she's got a body like an hourglass. Torna in diretta alle 12.08 per l'ultima mezz'ora di Fuji Comics. Siamo ormai giunti agli sgoccioli e abbiamo appena ascoltato il Linkin Park, quindi oltre che tornare in diretta siamo anche ritornati direttamente ai primi anni 2000. Linkin Park, gruppo musicale statunitense formatosi a Los Angeles nel 96, composto dal compianto Chester Bennington. Io penso di essermi messa veramente a piangere, o comunque ho sofferto abbastanza dopo l'annuncio della morte di Chester, perché i Linkin Park mi hanno accompagnato nella mia adolescenza. Soprattutto penso di aver comprato tutti i loro CD, avevo i CD dei live, ho sempre voluto andare ad un live e niente, non ho fatto in tempo e insomma sono ancora veramente molto molto triste per appunto la morte di Chester Bennington. Comunque parliamo di cose belle, non rimaniamo così tristi nell'ultima mezz'ora di Fuji Comics. Parliamo dei numerosi premi vinti dai Linkin Park, tra cui 2 Grammy. Il loro album sono stati certificati più volte disco d'oro e di platino. Il loro album d'esordio Hybrid Theory è stato certificato disco di diamante nello stesso paese per aver venduto oltre 11 milioni di copie. Sono stati anche nominati nel 2003 dall'MTV come sesto gruppo più grande di sempre, di tutti i tempi. Io sono d'accordo assolutamente con loro. Abbiamo appena ascoltato What I've Done, singolo appunto dei Linkin Park, pubblicato il 2 aprile del 2007 come primo estratto dal terzo album in studio Minutes to Midnight. Ed essendo ormai giunti all'ultimo momento, alla parte finale di queste 2 ore di diretta con Fuji Comics, siamo anche arrivati alla rubrica conclusiva appunto di queste 2 ore di diretta, la rubrica che racchiude un po' tutti gli eventi che hanno a che fare con la presentazione di fumetti, di graphic novel, gli incontri con gli autori o anche corsi di disegno, insomma tutto quello che ha a che fare appunto con i fumetti e con il mondo delle graphic novel. E quindi ci andiamo a ascoltare la nostra Teresa, che ha raccolto per noi tutti gli eventi bolognesi della settimana da qui al prossimo mercoledì. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, io sono Teresa e bentornati nella rubrica degli appuntamenti settimanali nell'ambito dei fumetti e delle graphic novel. Partiamo con gli appuntamenti di oggi, mercoledì 5 febbraio. Alle ore 19, presso la confraternita dell'Uva in via Cartoleria 20B, Gloria Bardi presenta il graphic novel Exit, dossier sul fine vita. L'autrice ne parla con Andrea Ruggeri, coordinatore del Circolo UAR Bologna. Dalla nascita della terapia intensiva fino al caso di Jay Fabo, passando per le vicende di Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby e Terry Schiavo. Storie di persone che ci accompagnano in un lungo confronto sui temi del fine vita, toccando questioni che hanno a che fare con la legge e la spiritualità. Uno strumento per introdurre una questione che in fondo riguarda tutti, l'autodeterminazione del singolo cittadino. Sempre oggi, mercoledì 5 febbraio alle ore 19, presso il Senape Vivaio Urbano in via Santa Croce 10, presentazione di L'importante è finire, di Flavia Biondi. La prima presentazione della nuova edizione dell'opera prima di Flavia Biondi, ora autrice affermata nel panorama italiano e non solo, ma qui alle prese con un libro dove il segno cambia e matura con lo scorrere delle pagine. Copertina inedita, nuovo lettering. Ne parla l'autrice con Lorenza Sherry De Luca, collega nel collettivo Manticora, ma oramai presentatrice fissa di tutte le serate. Al Modo Info Shop di via Mascarella 24B alle ore 15, giovedì 6 febbraio, corso di miniatura con Tiziana Gironi. Bordi, cornici, fasce per arricchire, abbellire, rendere preziosa una pagina scritta o dare risalto ad un'immagine. Un lavoro minuzioso e fantasioso. Corso pratico di miniatura adatto a chiunque ami dipingere e disegnare, principianti e non. Per partecipare inviare una mail a workshop@modoinfoshop.com. Ultimo appuntamento della settimana, l'8 e 9 febbraio per il Nerd Show Bologna, un'immensa fiera del fumetto, del gioco, del videogioco e della cultura pop nella splendida cornice di Bologna Fiere. La terza edizione di Nerd Show si prepara a battere tutti i record e a presentare al popolo degli appassionati un'offerta memorabile senza precedenti. Ben 34.000 metri quadrati, 10.000 in più rispetto al 2019, ricchi di incredibile attrazione a tema. Oltre 120 autori di fumetti, le maggiori case editrici, 500 postazioni videogames, eccezionali gare cosplay, gli youtuber più amati di sempre e le aree di intrattenimento più esclusive. Scopri la storia del videogioco in una retro gaming zone totalmente rinnovata. Ammira intere città fatte di mattoncini, divertiti con i migliori board game e assisti ai grandi spettacoli e show musicali. Gli appuntamenti della settimana terminano qui. Io vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Un saluto da Teresa e buona giornata. E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way? Quel, si può dire, quel gran figo di Lenny Kravitz, si può dire, dai, noi lo diciamo. Comunque, siamo tornati in diretta in realtà per i saluti finali, perché siamo giunti ormai alla conclusione di questa 16ª puntata di Fuji Comics, e quindi come sempre io ringrazio insomma tutti i miei ascoltatrici, tutti i miei ascoltatori, e ringrazio soprattutto oggi i miei colleghi di lavoro, i miei nuovi colleghi di lavoro che mi stanno ascoltando, anzi, visto che ormai è mezzogiorno passato, penso che abbiano iniziato ufficialmente il servizio, e quindi non so se poverini giustamente mi stanno ancora ascoltando oppure stanno già correndo in giro per la sala a lavorare. Comunque, in ogni caso, grazie ragazzi e ragazze, e ovviamente anche tutto il supporto dei miei amici e delle mie amiche che tutti i mercoledì mi ascoltano. E fatemelo dire anche come ultima conclusione di mio padre e mia nonna, che direttamente dalle Marche, con tutta un'attrezzatura tecnica per ascoltarmi al meglio, tutti i mercoledì si sintonizzano dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza per ascoltare Radio Città Fujiko e Fuji Comics. Dopo questi grandi saluti finali, io vi ricordo che insomma la programmazione di Radio Città Fujiko non termina qua, ma rimanete sintonizzati sempre sui 103.1 FM, perché ora ci saranno le notizie dall'Italia e dal mondo del nostro GR Iskra, e successivamente ci sarà a 12:40 il nostro Last Minute, il contenitore di tutti gli eventi culturali, musicali e cinematografici di Bologna, che si terranno appunto oggi nel suolo bolognese. E che dire, dopo tutti questi ringraziamenti, questi saluti, io vi auguro innanzitutto una buona giornata, un buon pranzo e una buona settimana, perché noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza, e vi lascio con l'ultima canzone finale per concludere un po' questa playlist lunare, che è iniziata appunto così parlando di luna, di astronavi e di NASA, e volevo concluderla un po' nello stesso modo. Volevo concluderla con un'altra canzone appunto dedicata alla luna. Questa canzone è dei REM, gruppo rock statunitense attivo dal 1980 fino al 2001 all'incirca, formatosi appunto in Georgia. La sigla REM tra l'altro sta per indicare il Rapid Eye Movement, la fase del sonno in cui appunto si sogna più profondamente, quindi anche un po' la luna, i sogni, tutto connesso. E ci andiamo appunto ad ascoltare come ultima canzone Man on the Moon, brano dei REM, secondo singolo estratto dall'ottavo album della band Automatic for the People. La canzone ha numerosi riferimenti al cantante, al comico, in realtà l'attore Andy Kaufman. La canzone ha dato proprio il nome al film del 1999 Man on the Moon, incentrato appunto sulla vita del comico, che è interpretato da Jim Carrey, ed è stata ovviamente utilizzata come colonna sonora. Tra l'altro, a proposito di questa cosa, adesso non c'entra come fumetti, ma mi è venuta in mente, vi consiglio anche di andare a vedere il documentario su Jim Carrey mentre interpreta proprio questo attore, questo comico Andy Kaufman, che si trova su Netflix, perché è veramente particolare, e si vede come Jim Carrey ha attraversato, diciamo, un momento un po' difficile della sua vita, si è impersonificato un po' troppo in questo comico, in questo attore Andy Kaufman, che era una persona abbastanza particolare. Jim Carrey l'ha seguito in questa scia di, insomma, pazzia. Quindi vi saluto ancora una volta, vi lascio il REM Man on the Moon, e noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre su Radio Città Fujiko. Ciao ciao. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's walking with the staff of war. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got me by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me I